Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. La pagina europea oggi, diciamo, una giornata piuttosto tranquilla, una fase di transizione, si costituiscono le commissioni, sapete, il nuovo presidente naturalmente italiano e così via. La Commissione UE intanto comunica stamane di non aver ricevuto nessuna richiesta dall'Italia di rinviare la scadenza del 1 febbraio, data entro cui il governo italiano deve rispondere alla lettera dell'UE. Secondo quanto si apprende da fonti UE, Bruxelles è ancora in attesa di una risposta da Roma entro il 1 febbraio, perché è l'ultimo giorno utile per poterla tenere in considerazione per la preparazione delle nuove previsioni economiche. Insomma, diciamo ordinari movimenti europei intorno naturalmente alla legge di bilancio. Altro tema, il ministro Martina chiede all'Europa un aumento immediato degli aiuti agli allevatori colpiti dal terremoto. Sentiamo il servizio su questo. Misure immediate e urgenti a sostegno di imprese agricole colpite dal terremoto. A febbraio i primi aiuti su corsia preferenziale dall'Europa. Così su Twitter ricorda lo stesso ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina il piano di rafforzamento di aiuti diretti che oggi presenta nel suo incontro con il commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan. Due gli interventi non rimandabili. Il primo riguarda gli allevatori. Martina chiede ad Hogan di rafforzare la misura immediata per coprire il mancato reddito degli allevatori con un aumento a 35 milioni di euro dagli attuali 23 del budget e la sua estensione alle imprese dei comuni colpiti dal nuovo evento sismico. L'aiuto verrà versato sulla base dei capi di bestiame posseduti prima del terremoto, con contributi diretti per bovini, suini, ovini ed equini. La prima tranche di anticipi di pagamento di circa 12 milioni sarà pagata entro febbraio, con procedure semplificate a costo zero per gli allevatori. Il secondo intervento riguarda i fondi di sviluppo rurale e prevede l'anticipo all'85% di queste risorse, allargando l'autorizzazione già avuta dall'Europa anche alle imprese agricole dei nuovi territori coinvolti. Parallelamente si lavorerà ad un intervento normativo di emergenza sul Fondo di Solidarietà Nazionale per il ristoro anche dei danni assicurabili provocati dai recenti eccezionali eventi atmosferici. Un intervento europeo massiccio a tutto campo, spiega Martina. L'obiettivo è dare massima liquidità immediata alle imprese attraverso il pagamento dei fondi europei dello sviluppo rurale e sostenerle in tutte le iniziative per la salvaguardia e lo sviluppo delle loro attività fondamentali per il rilancio dei territori colpiti. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Adesso naturalmente il nostro ampio spazio sportivo, una giornata ricca. Diamo subito la linea a Carlo Genta e ai nostri colleghi, quindi voi siete come sempre tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.